il tuo scendo, bene il tuo scendo. Ah, stai uscendo male. Grazie, grazie. Allora, buonasera Gianmarì, sta a posto? Tutto a posto, a posto. Vabbè, se vorrei si fa che là che sto combinando qualche cosetta. No, ti ho sentito fischiare, ho fatto una battuta, dai. E sono in ascolto, dai. Buon proseguimento. Capa Gianmarì, altrettanto, dai.